L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati per questa puntata nella quale parleremo molto di campagna, di insetti e anche di specie a rischio e aliene. Parliamo insomma di ciò che c'è fuori dalle mura delle nostre città e cominciamo dalla Puglia, perché abbiamo avuto occasione di parlare in questi giorni di emergenza maltempo con il direttore di Coldiretti Puglia, Angelo Corsetti, e abbiamo affrontato ovviamente non solo le questioni contingenti ma anche molti altri argomenti, ad esempio le speculazioni sui prodotti agricoli, e Corsetti ci dice qualcosa che ci è utile quando andiamo a fare la spesa, e della necessità che gli agricoltori comincino a dotarsi di polizze assicurative per mettersi al riparo dagli eventi climatici estremi che purtroppo sono sempre più frequenti. Allora sentiamo cosa ci ha detto Corsetti. Noi ieri abbiamo verificato, girando per Bari e per altre città, soprattutto alcuni dettaglianti dal punto di vista proprio della vendita al dettaglio, alcuni aumenti di prezzi di 500-550%. Il prodotto c'è o non c'è? Il prodotto che è venduto in quel termine lì, finocchi ed altro che erano venduti, rape venduti a 6 euro, sono cose che non stanno nella realtà, quindi è una speculazione che abbiamo poi preso atto della denuncia fatta da alcune associazioni dei consumatori. E anche questa mattina i nostri responsabili dei mercati di campagna amica stanno un po' girando per verificare la situazione. È evidente che il mondo della produzione, vedendosi ridotto anche dell'80%, del 90%, quello che arriva sul mercato dal punto di vista della produzione può costare qualcosa in più, è nel fatto del libero mercato, ma aumenti del 500% sono assolutamente ingiustificati e va colpito chi sta speculando su questa cosa. Sicuramente. L'altro aspetto, lei l'aveva già anticipato, invece è quello che riguarda le misure urgenti da mettere in campo e gli aiuti che possono arrivare dalla sburocratizzazione, oltre che dai contributi economici nei confronti degli agricoltori, no? Quindi già qualcosa mi ha anticipato, cos'altro state cercando di muovere? Dobbiamo camminare su due binari. Il primo è quello del riconoscimento della calamità naturale che occorre per le moratorie dei mutui, le moratorie dei contributi previdenziali per le imprese, che è una delle prime cose che deve essere fatta. Credo che su questo non ci siano dubbi, però. Su questo non ci sono dubbi, la norma, la declaratoria deve partire dalla Regione, la stiamo sollecitando e dovremmo andare, anche perché la prima scadenza dei contributi è il 16 di gennaio, quindi è qui alle porte, quindi se riuscissimo ad avere subito questa cosa non sarebbe male. L'altra questione però di fondo è strettamente collegata alla possibilità di intervenire immediatamente nel ripristino delle strutture. Ieri mattina parlavo con alcuni allevatori di Sant'Eramo piuttosto di Altamura che hanno avuto dei danni alle strutture, e per poter ripristinare quelle strutture debbono poter compiere degli atti che, se si infilano nella burocrazia attuale, non escono prima di un anno per ripristinare il tetto di una stalla. Per cui abbiamo chiesto all'assessore un incontro urgentissimo per definire una piattaforma a burocrazia zero, per poter poi entrare nelle misure del piano di sviluppo rurale che consentono risarcimenti, ma nella maniera più veloce e più rapida possibile per le imprese, garantendo che avranno risarcimento dei fondi che spenderanno. Sì, nella speranza appunto che abbiano anche delle disponibilità proprie, no? Per poter iniziare. Su questo sì, grazie della nota. Su questo stiamo lavorando anche con il nostro consorzio Fidi per intervenire con il sostegno di alcune banche. Ci stiamo lavorando in queste ore, spero che riusciamo a trovare una soluzione immediata. Un'altra considerazione le faccio a partire da quello che mi aveva detto il vostro presidente quando l'ho sentito proprio il primo giorno, diciamo, dell'emergenza. C'è anche nel futuro la necessità di cominciare a valutare da parte dei vostri associati anche delle assicurazioni che fino adesso sono state magari trascurate, visto che questi eventi estremi cominciano a essere molto frequenti e quindi potenzialmente ricorrenti anche. Noi dobbiamo prendere atto che la legislazione europea e italiana, conseguentemente, è una legislazione che prevede per le produzioni un intervento per il tramite delle assicurazioni. Quindi una persona che ha avuto, che vuole tutelare il proprio reddito e la propria reddito che proviene dalla produzione, deve assicurarsi. Vero è che molto spesso le assicurazioni definite multirischio, dove sono previsti più rischi, quindi grandine, eccesso di pioggia, siccità, gelo, neve e quant'altro, hanno dei parametri che sono molto spesso critici per le imprese poterli sostenere. Quindi va preso atto di questa necessità e va anche però concepito un sistema assicurativo che sia più leggero per le imprese e non sia gravoso, perché alcuni parametri che hanno le assicurazioni rendono la polizza poco appetibile, diciamo. Però è evidente che ormai è una cosa su cui non si potrà fare a meno e dobbiamo cercare di farla tutti perché possa costare meno. Negoziare tutti delle condizioni migliori, perfetto, in modo che perfetto, in tanti perfetto. Possano accedere, no? E quindi assicurarsi, esatto, e ottenere. Esatto. Tenuto conto che le compagnie però devono venire, perché molto spesso le compagnie hanno dei limiti. Cioè, noi parlando con alcune compagnie assicurative non avremmo mai potuto assicurare tanto patrimonio che è stato danneggiato, perché non avevano i plafond idonei a dare questo tipo di coperture. Quindi sono due interessi che si devono incrociare e su questo la politica e chi gestisce la cosa pubblica deve darci una mano a farlo. Non hanno iniziato per ora però? Che lei... No, c'è un piano assicurativo nazionale dove ci sono previsti dei fondi che però in occasione di queste situazioni qua non sono assolutamente sufficienti, non lo sarebbero mai stati. Insomma, bisogna cominciare a fronteggiare queste situazioni a tutti i livelli, direi. Assolutamente sì, ma guardi, ad esempio una delle difficoltà di queste ore, non è una cosa a cui si pensa facilmente, ai consorzi di bonifica nella parte del Salento hanno perso qualcosa come 500-600 contatori dell'acqua e abbiamo imprese che non hanno acqua perché hanno bloccato, e bloccando i contatori hanno bloccato anche l'erogazione, cioè rompendosi il contatore hanno bloccato l'erogazione dell'acqua. Perché si è gelato. Ma il consorzio di bonifica, i fondi immediati per riacquistare e fare opere di manutenzione a 500 così non li ha, cioè hanno delle difficoltà oggettive nei bilanci per fare queste cose, quindi bisogna mettersi seduti a un tavolo e immaginare che in Puglia debba esserci un sistema sia dell'emergenza sia proprio della gestione dell'acqua, delle risorse, che deve essere fatto in una maniera diversa da come è stata fatta fino ad ora. Sì, ecco, certo, bisognerebbe farlo in tempo prima della prossima, no, occasione estrema, che speriamo sia molto lontana, però insomma che questo dia una svelta a quello che è successo, a tutti questi processi. Questo andrebbe fatto sempre. Noi oggi siamo di fronte a una nevicata, ma 2 mesi fa eravamo di fronte ad un nostro agriturismo che era stato colpito da un'alluvione. L'alluvione era stato distrutto. Perché? Perché non c'era stata la manutenzione. Il nostro territorio ormai è fortemente gravato da un peso di anni di trascuratezza. Noi abbiamo un'area della bonifica dove non sono state fatte opere di pulizia dei canali da 20 anni. Cioè oggi perché c'è una forte nevicata, ma se ci fosse stato un eccesso di pioggia saremmo stati di fronte a un uguale identico dramma, perché ci sono aree dove non c'è più la possibilità di far defluire le acque come la natura vuole, e quando la natura non si rispetta se ne pagano le conseguenze, come sappiamo tutti purtroppo molto bene. Allora, io vi auguro di uscire presto da questa situazione per poter lavorare insomma sul futuro e la ripresa. Io la ringrazio, tenuto conto del fatto che in queste ore stiamo cercando di far passare il messaggio che è quello che serve, di fare le cose che servono. Abbiamo detto meno post, meno fotografie, c'è chi sta raccogliendo le fotografie delle disgrazie, ne faremo un gran bel album di queste fotografie, ma oggi serve veramente che adesso arrivi la telefonata della convocazione del tavolo dove si dice come si fa a dire al nostro allevatore che può andare a comprare due travi e due colonne e poter rimettere sulla propria stalla come lo deve fare, e purtroppo questa telefonata in queste ore non sta arrivando. Questa è la cosa che ci preoccupa e sulla quale stiamo lavorando. Meno foto e più azione, come dar torto ad Angelo Corsetti, che è il direttore di Coldiretti Puglia, che aspetta un tavolo di confronto che speriamo venga convocato al più presto per dare risposte agli agricoltori, agli allevatori. Ora cambiamo argomento, ne introduciamo uno nuovo. In settimana a Roma è stato presentato un progetto di ricerca e comunicazione LIFE, cioè di quelli finanziati dall'Unione Europea. Si chiama ASAP, che è l'acronimo di Alien Species Awareness Program, cioè programma di consapevolezza, diciamo così, sulle specie aliene, ma che ricorda anche un altro ben noto acronimo, quello di As Soon As Possible, cioè più presto possibile. E perché questa doppia faccia? Perché al più presto possibile vanno fermate le specie aliene. promotori del progetto sono ISPRA e Legambiente e Rossella Muroni è la presidente di Legambiente. Quello che noi abbiamo come obiettivo principale è proprio far capire l'importanza del problema e parlare in termini semplici ma non banalizzanti di un problema che riguarda l'ecosistema in generale e più in generale l'equilibrio della biodiversità. Come potete immaginare non è semplice, a partire dai nomi latini delle specie, però è fondamentale far capire agli italiani che già nel nostro paese sono presenti 3.000 specie aliene, parliamo di piante e animali, che minacciano gli ecosistemi, la salute e le attività dell'uomo. Ma la gente ha la percezione di questa gravità, insomma, di certi atti anche così semplici come possono essere portare una pianta da un paese esotico perché ci piace? Assolutamente no, noi abbiamo ormai anche i giardini pubblici invasi da animali e piante che appunto le persone portano con sé dopo magari aver fatto un viaggio nel nostro paese, poi dopo un po' le abbandonano. Se pensate ad esempio alle tartarughine piccole, quelle che vengono solitamente comprate dai genitori che vogliono evitare il cane o il gatto per i bambini, ecco, noi abbiamo ormai nei nostri centri urbani i giardini e i laghetti magari artificiali invasi da questo tipo di tartarughe o alcune piante che noi vediamo nei nostri giardini, piante ornamentali. E tutti si ricordino il caso della nutria che non abbiamo citato ma che è insomma, famosissimo al nord almeno. Certo, anche perché nel caso della nutria poi peraltro contribuiscono a un problema che in Italia è gravissimo, che è il dissesto idrogeologico. La nutria influenza direttamente la qualità della biodiversità e l'ecosistema fluviale scavando gli argini. Insomma, tutti noi purtroppo sappiamo che negli ultimi anni nel nostro paese i fiumi, diciamo, che stratipano sono all'ordine del giorno, è un problema oggettivo. Ora facciamo una piccola pausa e proseguiamo tra pochissimo sullo stesso argomento. Ti piacerebbe entrare davvero nella caverna di Platone? Radio 24 con Alessandro Milan, Leonardo Manera e altri ospiti vi aspetta domenica 15 gennaio al Teatro Manzoni di Milano per ridere e divertirsi con l'attualità. Tutte le info su radio24.it e teatromanzoni.it. Platone, la caverna dell'informazione, il lato comico dell'attualità. L'altro pianeta. Ancora buon pomeriggio, stiamo parlando del progetto ASAP dedicato al contrasto delle specie aliene nel nostro paese, quindi animali e vegetali che provengono da altri continenti e che mettono a rischio la biodiversità nazionale ed europea. Poi un progetto che è stato presentato in settimana, che è finanziato dall'Unione Europea, proseguirà per i prossimi 3 anni con il coordinamento del ISPRA, l'Istituto Nazionale per la Protezione e Ricerca Ambientale, e proprio lì lavora e coordina questo progetto Piero Genovesi. Sì, questo infatti è un progetto di comunicazione. I progetti LIFE, che sono uno strumento che per l'Italia è stato essenziale per gli interventi di conservazione della natura, ha diverse branche. Questo è un progetto proprio di comunicazione e governance e infatti, diciamo, anche a livello europeo si è discusso in più occasioni della necessità di accompagnare appunto questi gli strumenti regolamentativi con delle misure invece di informazione e comunicazione, perché questa è veramente una materia dove è difficile spiegare, cioè, occorre uno sforzo notevole per spiegare i motivi che ci sono dietro questo tipo di interventi e per rendere partecipi tutta la società della necessità di adottare dei comportamenti più attenti su questo aspetto. La cosa che però mi ha colpito, e su questo non temo non ci si possa far molto, anche se a livello di comunicazione si lavora molto bene, è quello che sta accadendo nel Mediterraneo, perché se quello dipende ad esempio da Suez, lì come si può intervenire? Cioè, da una parte si può chiedere attenzione al pubblico, ma da altre parti no. No, questo è sicuramente vero. Diciamo, gli esempi che più noti, pensiamo alla nutria che oramai è presente praticamente in tutta Italia, certo non è pensabile di ritoglierla dal nostro territorio, per cui bisogna intervenire con misure di prevenzione, di controllo dove i danni sono più gravi. Però i numeri, noi in Italia abbiamo dati su più di 3.000 specie introdotte, di cui solo una piccola parte provoca impatti, però i numeri sono veramente molto alti e nel mare il numero sta crescendo rapidamente perché sono quasi 200 le specie entrate attraverso Suez e questo numero è destinato molto probabilmente ad aumentare perché Suez è stato lo scorso anno raddoppiato dal governo egiziano e quindi ha aumentato il commercio di navi. Però ci sono anche notizie positive, sempre per la preoccupazione che questo fenomeno sta sollevando a livello internazionale. Proprio quest'anno è entrata in vigore una convenzione sulle acque di zavorra delle navi che obbligherà a trattare queste acque che sono uno dei principali vettori di arrivo delle specie marine, perché le navi da trasporto nelle loro proprio nelle paratie dove tengono le acque di zavorra che bilanciano le navi durante la navigazione trasportano accidentalmente migliaia di specie da una parte all'altra del mondo e questo è il principale vettore che ha portato a molti problemi nei nostri mari. Quindi con questa convenzione che è stata adottata a livello internazionale ci saranno degli strumenti efficaci per far sì che queste acque vengano trattate in modo che non trasportino più specie. Quindi è possibile intervenire soprattutto con la prevenzione, perché ecco noi quello che spesso succede, pensiamo al caso della nutria, che noi il problema lo vediamo quando esplode e a quel punto cerchiamo di correre ai ripari intervenendo su quello che vediamo. In realtà anche questa legislazione europea dà molta più enfasi alla prevenzione, un po' come in campo sanitario. Se noi fossimo in grado di ridurre i vettori di arrivo di queste specie, investendo molto meno otterremo risultati molto più efficaci. E questo è possibile nel mare ed è possibile ancora di più in quegli ambiti nei quali invece l'arrivo di specie è legato ad attività intenzionali. Pensiamo alla vivaistica. Sì. Nel campo delle piante che provocano problemi molto rilevanti, nel campo delle piante si è dimostrato che il principale meccanismo di arrivo di queste specie è proprio la vivaistica, sono piante ornamentali spesso che poi si insediano in natura e provocano grandi problemi. Pensiamo, faccio un esempio, l'Eraclum mantegazzianum, che è una pianta montana in Italia, presente in Val d'Aosta e in alcune regioni dell'arco alpino, che a contatto con la pelle può provocare delle ustioni che a volte sono molto serie, ma a volte addirittura mortali. Questa specie è stata introdotta perché è commercializzata, perché è anche molto bella. Ora, è chiaro che insomma, in questi casi, se con un po' più di informazione si poteva evitare, certo. Ma certo, infatti, questo è. Ci quindi, sono piante molto belle di tutti i tipi, ecco, magari non così pericolose. No, ma anche lì il progetto intende promuovere dei codici di condotta più responsabili e noi abbiamo elaborato in ambito europeo un codice di condotta per l'ortovivaistica che intende promuovere l'utilizzo di specie autoctone. Noi negli ambienti mediterranei abbiamo talmente tante piante dei nostri territori che sono bellissime che sarebbe sicuramente molto utile e possibile utilizzare più spesso piante che fanno parte dei nostri ambienti e non piante portate dall'Australia o dall'America Latina. Senz'altro. Dunque, quindi, se questa è la base, poi ci si lavora appunto a questo grande progetto di comunicazione che, se diciamo così, riuscirà a avere un grosso impatto, potrebbe essere da un modello magari da replicare altrove in Europa. Questo è un po' anche il senso dei progetti LIFE. Certo, diciamo che è un tema sul quale a livello europeo esiste un tavolo, un forum scientifico del quale faccio parte io, per l'Italia e colleghi di tutti i paesi, che anche finalizzato a scambiarci queste esperienze. Tutti i paesi hanno fatto, per esempio, questo codice di condotta è stato applicato per la prima volta in modo sperimentale in Belgio e noi cercheremo di imparare le lezioni che in quel paese sono state raccolte proprio su questa esperienza. Da noi lavoreremo su molti codici, su molte linee guida, ad esempio una sulle aree protette, dove l'Italia è all'avanguardia e che potrebbe rappresentare la base per delle linee guida europea o per comunque per strumenti pilota che possono essere applicati anche in altri paesi. E infine, poiché stiamo parlando di specie a rischio, è arrivato in settimana anche uno studio di Greenpeace dedicato agli insetticidi neonicotinoidi, che minacciano, secondo la ricerca, non solo le api, e questo in pratica si sapeva, ma anche bombi, farfalle, insetti acquatici e persino uccelli, con ripercussioni quindi su tutta la catena alimentare. Abbiamo chiesto delucidazioni su questo studio a Federica Ferrario, responsabile della campagna Agricoltura Sostenibile sostenibile di Greenpeace. Di questa famiglia di insetticidi, appunto i neonicotinoidi, e tre di questi in particolare erano già stati parzialmente banditi nella fine del 2013 a livello europeo, appunto per i rischi che si presumevano per le api mellifere, quelle che abbiamo, diciamo così, che sono abituati a vedere negli alveari per produrre il miele. Quindi sono state temporaneamente vietate per alcuni usi, non tutti, e per alcune colture, per dare il tempo, diciamo così, all'Agenzia Europea di Sicurezza Alimentare per fare ricerche e analizzare, per raccogliere nuovi dati e capire esattamente l'ampiezza del problema. Siamo ancora in attesa di avere il risultato finale di questa analisi da parte dell'ente europeo, ma nel frattempo abbiamo commissionato all'Università del Sussex, che è un po' il front line specializzato su questo tipo di lavori, per analizzare tutte le ricerche che sui neonicotinoidi sono state fatte dal 2013 in avanti, ovvero da quando è entrato in vigore il bando parziale. E il risultato in realtà non è per niente buono, perché oltre a riconfermare ampiamente quelli che sono i rischi diretti e indiretti per le api mellifere, in realtà questo studio ha aperto un po' gli occhi a tutti per la prima volta su quelli che sono i rischi di queste sostanze anche per una serie molto più vasta di insetti e di animali, perché parliamo anche di, per la prima volta abbiamo dati chiari su tutte le tantissime specie di api selvatiche, per animali come i bombi, insetti acquatici come le libellule, le farfalle, fino ad arrivare addirittura anche agli uccelli. Quindi una periculosità molto più vasta e anche una ramificazione, una persistenza molto più puntuale nell'ambiente. Altro punto sollevato da questo studio è che l'utilizzo dei neonicotinoidi non si ferma nei confini del campo dove viene fatta l'applicazione, ma essendo anche sostanze idrosolubili, si vanno a espandere in aree molto più vaste, addirittura in zone che con l'agricoltura poi c'entrano poco. Altro elemento nuovo, hanno un impatto poi anche tramite la flora spontanea poi sul mondo, sulla fauna esistente. Quindi addirittura pensiamo in tutte queste fasce di fiori, di piante, di siepi che vengono seminati a bordo campo appunto per creare degli spazi, dei ricoveri per gli impollinatori, sono a loro volta oggetto e quindi poi fanno da trasmettitore di queste sostanze alla fauna che in questi siepi, in queste aree va a depositarsi, va a vivere. Quindi un pericolo ad ampio spettro, insomma, ecco. Assolutamente sì. E quindi di qui la richiesta, ovviamente immagino all'Unione Europea, ma in particolare al Ministro Martina, affinché diciamo dia una posizione chiara dell'Italia rispetto a questo tema. Sì, assolutamente, con questi dati, insomma, con i dati scientifici che possiamo analizzare al momento, è chiaro che il bando non solo deve essere reso passare da temporaneo a permanente, ma deve essere ampliato a tutti gli usi di queste sostanze, quindi queste sostanze devono essere bandite per sempre dall'utilizzo in agricoltura e in ambiente in generale, e devono non solo, ma deve anche essere fatta un'analisi dei rischi per tutti quegli usi diversi dal comparto agricolo che è stato analizzato fino adesso. Il problema è molto più ampio di quello che si pensava finora. E quindi richiede anche una ricerca che deve essere portata avanti, insomma, che vada avanti, non si fermi qui. Sì, deve essere portata avanti la ricerca, ma soprattutto quello che dobbiamo sempre più aver chiaro in testa è che non possiamo pensare di sostituire una sostanza con un'altra, perché il problema permane. Quello che dobbiamo fare è un investimento chiaro in pratiche agricole sostenibili, quindi dobbiamo investire in sostenibilità, dare la possibilità agli agricoltori di cambiare l'attuale modello agroindustriale e investire sempre di più in sistemi ecologici, perché è l'unica maniera per farci uscire da questo circolo vizioso dove da una sostanza passiamo a un'altra, ma i problemi cambiano ma continuano a esserci. E di qui la necessità appunto del coinvolgimento del Ministero e di tutti coloro che si occupano a livello governativo, legislativo di questi temi, insomma, perché l'indicazione deve arrivare da lì. Assolutamente, tra l'altro noi abbiamo anche messo a disposizione di chi vuole informarsi un po' di più di un sito web che si chiama appunto salviamoleapi.org, dove è possibile trovare tutta una serie di informazioni sul declino delle api e anche quest'ultimo lavoro, quest'ultimo studio, e attraverso questo sito è anche possibile firmare direttamente una petizione indirizzata sia alle autorità italiane sia a quelle europee per chiedere uno stop all'utilizzo di queste sostanze. E con Federica Ferrario di Greenpeace ci fermiamo, ci diamo appuntamento la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto.